Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched. On Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad launched a horrible chemical weapons attack on innocent civilians. Using a deadly nerve agent, Assad choked out the lives of helpless men, women and children. Caro Oscar, ci siamo svegliati così questa mattina. Con erano le ore, siamo alle 4:40 nostre. Sì. La notizia ormai forse la sapete. Nella notte gli Stati Uniti dalle navi militari hanno lanciato 59 missili sulla Siria, colpendo su ordine del presidente americano Donald Trump, perché così funziona negli Stati Uniti, la base militare da cui sarebbe partito l'attacco chimico del dittatore, uso le parole di Trump, Bashar al-Assad. Che succede ora? Questo Oscar non lo sappiamo e non lo sa nessuno. La Russia ha reagito. La Russia ha reagito molto duramente, perché dopo il 2013, quando Obama aveva pensato questo, ma poi era stato bloccato, il grande errore di Obama, che purtroppo tutti ereditiamo e che l'Occidente poi ha tradotto in un atteggiamento di totale distacco verso la situazione siriana, e ciò che ha portato la Russia per la prima volta, cosa che non poteva neanche sognarsi di fare ai tempi della guerra fredda, ad avere stivale sul campo i suoi jets in volo in Siria. La Russia di Putin è diventata così grazie a questo terribile errore, colei che dà le carte da una parte nei confronti della potenza sciita l'Iran, dall'altra verso il desiderio ottomano della Turchia di Erdogan sunnita di essere l'altra potenza di riferimento, rispetto invece agli Emirati Arabi che finanziano la parte dell'opposizione a Bashar al-Assad, che è nata come laica democratica, divenne poi qaedista. Tra l'altro, guarda, proprio poco fa, noi saremo in diretta fino alle 9:30, poi dalle 9:30 alle 10:30 Anna Migliorati condurrà uno speciale. Insomma, come succede in questi casi, Radio 24 non vi abbandonerà neanche per un secondo raccontando tutto quello che succede. Poco fa, eccola la reazione di Putin. Secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, Putin dice: l'attacco americano è un'aggressione gravissima che viola la legge internazionale contro uno Stato sovrano. È una dichiarazione ferma, secca, precisa, molto dura della reazione di Putin, che dice la reazione di Putin e il Cremlino alla decisione di Trump di attaccare. Anche perché nella sua dichiarazione Donald Trump ha puntato il dito esplicitamente contro le responsabilità russe. E una delle motivazioni addotte agli americani, al mondo, per motivare il lancio di questi 59 missili cruise da due incrociatori americani della classe Erlenborg che stavano nel Mediterraneo orientale, è stata esattamente, da parte del Presidente degli Stati Uniti, la dichiarazione secondo la quale i russi presenti non solo sul campo, ma anche in quella stessa base aerea da cui è partito l'attacco siriano con uso delle armi chimiche, i russi presenti in quella base sono venuti meno, ha detto Trump, alla loro responsabilità di impedire l'utilizzo di queste armi da parte del regime di Assad. Quindi c'è una responsabilità indicata direttamente da Trump a carico di Putin e dei russi, motivo per il quale a maggior ragione si spiega questa reazione russa, che certo è destinata a imprimere un cambio sostanziale delle relazioni tra i due paesi. Allora, noi ovviamente convochiamo tutti i nostri ascoltatori 800 24 00 24 per cercare anche da parte vostra di capire cosa ne pensate. Vi siete svegliati, immagino, con questa notizia, l'avete appresa magari da noi, da Radio 24. Dobbiamo capire, guarda, la CNN per esempio, anche se è notte in America, continua a livello, insomma, 24 ore su 24 a parlare. Adesso ci sono esperti che raccontano quello che potrebbe essere gli sviluppi adesso di questa, situazione. Insomma, dopo tanti mesi di attesa e di tante parole sulle parole di Trump sui suoi primi atti, questa è la scelta della sua politica in Medio Oriente. Anche perché su tutti i giornali oggi c'è gli Stati Uniti pronti all'attacco militare, se evocano la questione militare. Lasciato dire, perché invece, secondo le dichiarazioni di fonti ufficiose militari americane, in realtà dai satelliti, dagli schermi in diretta, a quanto pare, naturalmente da confermare, visto che abbiamo, non dimentichiamo mai i precedenti di ciò che viene detto per giustificare le azioni militari rispetto a quello che poi si scopre davvero, però le fonti di intelligence e della National Security americane avrebbero seguito addirittura in diretta, dicono, e avrebbero quindi visto in diretta, avrebbero le prove in diretta del coinvolgimento poi negato da parte del regime di Bashar al-Assad nell'utilizzo di queste armi. Sapete che i russi hanno tentato di giustificare con due versioni diverse invece l'utilizzo sul campo da parte di questi agenti chimici. Avrebbero detto che sarebbe stato colpito per errore uno stoccaggio di queste armi. Non ci ha creduto nessuno. Naturalmente bisogna sempre avere il dubbio, perché noi che cosa davvero sia accaduto? Ma è chiaro, non lo sappiamo. Secondo gli Stati Uniti è accaduto che il dittatore Assad ha fatto un attacco chimico. Secondo la Russia invece i siriani hanno colpito una base dove i ribelli avevano stoccato delle armi chimiche. Ora, si dice sempre che in guerra la prima vittima è la verità, caro Oscar. Non possiamo sapere quale delle due versioni sia la più corretta. C'è scritto fin dall'Eliade, il velo di Ares è ciò che scende sugli occhi di chi è in guerra, cioè ciò che impedisce di vedere ciò che c'è davvero di fronte agli occhi. Dopodiché anche la Mogherini, cioè altro rappresentante della politica estera europea, è in contatto con Stati Uniti e ONU, e l'Unione Europea era stata informata dell'imminente svolta degli Stati Uniti. Ma Oscar, abbiamo il nostro primo ospite, che è Jean-Pierre Darny dell'Istituto Affari Internazionali, che salutiamo e grazie di essere con noi, direttore del programma Buongiorno. Sicurezza e Difesa dell'Istituto. Allora Darny, ovviamente è tutto molto caldo, molto fresco, molto anche emotivamente impattante per cercare di fare un'analisi di quello che succederà domani, però dobbiamo farlo, insomma. Washington Post per esempio si chiede già in un editoriale che c'è da un'ora, la prima questione, dice, è dopo l'attacco americano in Siria, e come risponderà la Russia? Greg Jaffe, ovvio che non risponderà. Non risponderà. Beh, la cosa è molto chiara, l'analisi si può già fare, non domani, ma si deve fare oggi su quello che è successo ieri, perché abbiamo Trump che ha fatto esattamente quello che Obama alla fine 2012 e inizio 2013 ha detto: guardate che se oltrepassate questa linea rossa di uso di armi chimiche in Siria, noi prenderemo azioni. Poi Obama non lo fece per una serie di motivi, incluso il motivo che la Russia all'epoca disse: no, ma guardate, noi garantiamo noi lo smantellamento dell'arsenale chimico siriano. Esatto. Così la Russia iniziò ad avere un ruolo importante, perché si era l'alleato mediatore. Ovviamente quello che è successo due giorni fa, dove in modo palese, testimoniato da vari paesi occidentali, ONG, via dicendo, di l'uso di armi chimiche su popolazione civile, quindi sono stati gasati, per usare un termine italiano diretto, dei civili nel corso di conflitto di un conflitto in Siria, che sia una cosa collaterale o no, comunque il dato c'era. Quindi esattamente quello che Obama non fece, questa volta Trump, anche sotto, penso, lui lo dichiara nel suo statement di questa notte, e credo che sia vero, sotto i bambini morti, non devono affogati morire, dai certo. gas, e lui dice: ma che cavolo è questo? Però Darny, dei generali, c'è un... va, però Darny, e c'è... è esattamente, è un colpo politico molto importante. Però c'è una cosa... ridà credibilità agli Stati Uniti, rimanda la Russia in un angolo, anche perché lei non era più garante di questo accordo, quindi la Russia aveva fallito, dà anche un colpo indiretto a Teheran, che è il regime alleato, e si sa che stazione americana, praticamente quella di Trump, è molto critica verso gli iraniani, e dà anche un messaggio a tutto il pianeta, incluso la Corea del Nord, dicendo noi siamo tornati a essere credibili. Però, perché quando diciamo una cosa poi usiamo la forza. Darni, quindi, c'è una questione... È una svolta notevole. Lo so, mi sente Darni, perché c'è un'agenzia proprio su questo. Poco fa il portavoce del Cremlino, oltre a dire che Putin ha detto è un'aggressione a uno Stato sovrano, ha detto Bashar Assad e la Siria non dispone di armi chimiche, sono state tutte distrutte sotto controllo dell'ONU e si ignora che siano le formazioni islamiste dei terroristi a usare armi chimiche. Cioè, dove sta la verità? Ma la verità, francamente, se voi vi informate con i governi occidentali un po' seri, vi danno informazioni completamente diverse, quindi non dobbiamo scherzare, le agenzie stampa del Cremlino sono quello che sono, lo se ne è sempre stato, si tratta di propaganda e basta, quindi non dobbiamo far finta che ci sia una verità nel mezzo, no, cioè se vi informate con i vari paesi europei, Francia, Regno Unito ad esempio, vedrete che le analisi sono costanti dal 2012 in poi sull'uso di armi chimiche a ripetizione. Quindi, insomma, cioè, lì non bisogna scherzare. Ecco. Non bisogna scherzare. E qui, ora che succederà? Allora, la Russia non reagirà, ci dice Darni. Farà però... tanti casini diplomatici, però che cosa deve fare altro? Tra l'altro, Trump ha dimostrato che ha una superiorità tecnologica che può usare, che può colpire con dei missili quando vuole, al di là delle difese e via dicendo. Quindi è un avvertimento importante, un richiamo su alcune cose. Tra l'altro largamente condiviso dai paesi, perché subito l'Australia, il Regno Unito, ma anche la Francia aveva una posizione ed era tra l'altro molto interventista con lo stesso presidente nel 2012-2013. Quindi c'è un consenso occidentale piuttosto forte intorno a questo tipo di intervento. Certo, poi c'è qualcosa che è un po' da ridere, perché o di molto paradossale, se vogliamo, è che le critiche anche dovute contro Trump erano numerose per la sua politica sociale, per il suo smantellamento dell'Obamacare, numerose anche per il ritiro dell'accordo di Parigi sul clima. E quindi c'era nella coscienza democratica, se posso dire, occidentale, una forte opposizione a Donald Trump. E adesso abbiamo un Donald Trump che ha nel nome di un diritto anche di ingerenza, molto quello democratico, di popolazione che sono gasate, lui va a intervenire e raggiunge esattamente il coro di quelli che negli ultimi giorni protestavano per questo intervento in Siria. Questo è un enorme paradosso che possiamo constatare, magari avrà anche qualche effetto politico. No, ma un enorme paradosso che spinge coloro che lo accusavano di isolazionismo, di disinteressarsi, molto probabilmente a mutare tono anche nel dibattito interno degli Stati Uniti e a mettere in luce i rischi invece di questa strategia. Io vedo già dichiarazioni come quella, per esempio, dell'ex generale in pensione, generale John Allen. John Allen è stato un coordinatore dietro le quinte sui temi della sicurezza nazionale per la presidenza Obama, e ha già rilasciato una dichiarazione in cui dice: beh, oggi certo noi non l'abbiamo fatto nel 2013, dice virgolettato, ma oggi è molto più difficile quello che ha intanto deciso di fare il presidente Trump, perché non dimentichiamo, a differenza di allora, abbiamo sul campo unità militari russe e siriane praticamente fianco a fianco. Il rischio di creare una devastante escalation è molto elevato. Questa è la dichiarazione del generale Allen, che continua osservando: da questo momento Israele ci pensi bene prima di lanciare altre azioni come quelle che ha fatto sui cieli della Siria, perché i russi non avrebbero lo stesso atteggiamento di sostanziale indifferenza coordinata, perché il sospetto è che addirittura i russi abbiano detto ai siriani: voi se vi colpiscono gli israeliani per buone ragioni è meglio che non reagiate. Ecco, però dice il generale Allen, questa cosa finisce da questa mattina, come dire, cambia il quadro della possibile reazione, e questa cosa da parte siriana potrebbe coinvolgere anche Israele. Non dimentichiamo che Israele fin dal primo momento è stato tra le più calorose reazioni a sostegno, invece, sì, certo, nel quadro della lettura di questo intervento americano, che è contro l'Iran oltre che direttamente contro Bashar Assad. Rischi di questo tipo, secondo lei, Darni? Ma se citiamo il generale Heller è ovvio che rosica, perché è stato fatto oggi quello che lui voleva fare, non è stato fatto all'epoca in un modo drammatico. Io mi ricordo molto bene la posizione francese, che a un certo punto voleva andarci da solo per colpire chi usava le armi chimiche e quindi Assad. E invece l'hanno fatto oggi, ovviamente il generale Allen fa un commentario amare, dice: ah, ma l'avete fatto, però sapete, più complicato e più rischioso. Vabbè, insomma, non dobbiamo analizzare con gli ex, dobbiamo analizzare con chi ha il potere oggi. Quindi lo scenario diverso, anche le persone. Certamente ci sono effetti collaterali, ma possibili, ma cioè, si colpisce una base aerea, ovviamente avvertendo i russi prima, perché io da quanto ho letto stanotte i russi sono stati avvertiti. È stato consentito in pratica anche l'evacuazione della base dal personale. Infatti sono morte 4 persone, pare, con 59 missili. Sono 4 persone che, per la grazia di Dio, sono sempre troppi morti, però è molto inferiore al numero di civili colpiti anche soltanto nell'ultimo attacco di 2 giorni fa, con armi chimiche, perché insomma ha gasato una parte di civili non indifferenti, certo, dei bambini. Però Danese, devo dire che non è sproporzionata la reazione. Ci sono molti commenti anche di ascoltatori che si pongono anche la domanda. Per esempio, un ascoltatore dice: ma qualcuno può convincere sul perché Assad avrebbe dovuto usare in questo momento armi chimiche, chiaramente creando una situazione che poi ha portato a quello che ha portato, cioè dove sarebbe la brutale utilità in questa fase di contesto di attirare l'attenzione del mondo su di sé, in questo caso attirare anche dei missili da parte di Assad? Devono sapere che in politica bisogna mettere in conto la stupidità umana, cioè non è che tutti siano dei Machiavelli che stanno a giocare a risico. Cioè, Assad è anche un dittatore con delle parti enormi di stupidità, o di gente che fa cose, di generali così, c'è un regime un po' così, con della gente non controllata, e quindi ha fatto una cretinata, questo è sicuro, e la cretinata la paga. Però ovviamente lì non c'è un disegno machiavellico, perché il controllo dentro una dittatura in guerra è quello che è, quindi non bisogna idealizzare la politica realista. Cioè, lì è successa una cosa, ha fatto una cretinata, quella cretinata è stata ripresa da tutti i media del mondo, è diventata una specie di onta, è cresciuta. Lo stesso Trump personalmente penso sia stato colpito dalla morte dei bambini, come tutti quanti noi, o almeno come anch'io lo sono stato, e quindi c'è stata una reazione. Allora, noi nel ringraziare Jean-Pierre Danis, che ricordiamo è direttore del programma Sicurezza e Difesa dell'Istituto Affari Internazionali, adesso andiamo un attimo in pubblicità, caro Oscar, poi ci sono tantissimi ascoltatori, andiamo in diretta fino alle 9.30, certo anche poco fa il portavoce del Cremlino ha detto il rapporto tra noi e gli Stati Uniti e Washington in questo momento è di notevoli danni in una situazione in cui già siamo in uno stato deplorevole di rapporti, insomma. Beh, scafo in faccia a Putin di fronte ai russi, non puoi trascurare che è il punto che viene prima nella valutazione russa rispetto anche alla valutazione di cosa succede sul campo internazionale in Medio Oriente. Il problema è il prestigio leso di fronte a Putin, che era diventato il gran cartaro, per così dire, al tavolo siriano. Pubblicità, rientriamo tra un attimo. E 44 minuti, caro Oscar, andiamo in diretta fino alle 9.30 oggi. Ci sono gli ascoltatori, devo dire che molti ci scrivono, ne stavamo discutendo anche con Oscar durante la pausa pubblicitaria, che ascoltatori che, come dire, non hanno la stessa perentoria convinzione che Jean-Pierre Danis ci ha detto, cioè che sia stato Assad, punto, e comunque l'esercito siriano a usare. Io ti stavo esponendo anche che secondo alcuni rapporti intelligence, in particolare di due paesi, tra cui un paese leader europeo, una delle ipotesi, pensate, è anche quella che in effetti, e su questo è vero che la maggioranza delle fonti di intelligence sono d'accordo, quelle occidentali, che l'uso sia davvero avvenuto da parte di armi stoccate del regime ancora di Bashar al-Assad, da parte di mezzi di Assad, ma che si possa leggere come un utilizzo ordinato e avvenuto in quella maniera, che sicuramente è un autogol clamoroso per il regime di Assad, da parte di qualche vertice della catena militare di Assad, che dice: oramai con Trump e Putin, che non è più per la difesa a oltranza di Assad, creiamo l'incidente e acceleriamo nell'uscita dal campo. C'è una sorta di colpo di stato. Quindi, interno militare, è che non lo sappiamo e noi riferiamo solo le interpretazioni che raccogliamo da questo punto di vista. Ci sono ascoltatori. Marco da Genova, buongiorno. Buongiorno cari compagni di viaggio del mattino. Eccoci. Voglio solo fare una puntualizzazione breve. Io desidererei che tutti quanti noi ascoltatori ogni tanto la prendessimo un po' più bassa, non ci facessimo prendere dall'ansia, dall'emozione, che è corretta perché i fatti sono reali. Ma diciamo che negli ultimi tempi scaramucci di questo genere sono ordine del giorno. Ricordo solamente che la Crimea faceva parte di uno Stato e che è stata invasa, è stata annessa senza che nessuno dicesse niente. Quindi bravo. Quando mi vengono a dire che Belan, ma qui dico Belan perché sono Desena, scusate, ma... è venuto fuori Belan, vabbè. Scusa, vi chiedo scusa, ma capite bene che è tutta una finta. Io sono sereno, ve dico la verità, non credo che nessuno voglia fare delle cose pericolose. Ci sono le persone come mia madre, a 81 anni, sentono queste cose. No, tranquillizziamo, Marco da Genova, la mamma di 81 anni. No, la mamma di 81 anni. Io sono tranquillo. No, nel senso, non abbiamo l'approccio che sta scoppiando la terza guerra mondiale. Sta raccontando un fatto grave, un fatto militare grave. Io invito voi che siete equilibrati, ma adesso... tutto al giorno ci saranno tutto stavamo commentando questo. L'informazione parte in quarta perché c'è anche un aspetto, posso dirvi, autogiustificativo, la macchina degli speciali ovviamente è tutto giusto così, ma è anche giusto ricordare che il pericolo dell'enfasi autogiustificativa è dietro l'angolo. Io ti ringrazio per avercelo ricordato con la tua voce. Che tranquillizziamo soprattutto la mamma di Marco, 81enne. Non ci sono missili cruise in arrivo sulle nostre teste. È successa una cosa militare, però seria. Non sapere chi ha ordinato e porta la responsabilità, qualunque sia la sua fede o sia agnostico, della morte di quei bambini civili, ecco, anche se ovviamente morti di quel tipo ce ne sono tantissime nella guerra. Però ci ha ricondotto col muso contro il vetro, per così dire, di fronte alla tragica realtà di queste guerre che partono in un modo, durano anni, centinaia di vittime, milioni di profughi, e siamo ancora con tutte le potenze che adesso si accusano tra loro non sappiamo neanche chi li ha ammazzati. Quelli. Esatto. Una cosa da... C'è Mario da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Niente, parto ruota libera. Niente, io sono contrario al bombardamento perché ritengo che i russi e i siriani non abbiano nessun interesse, come già è stato detto da molti altri ascoltatori, a fare questo tipo di operazioni e soprattutto aprire un vaso di Pandora sulle armi chimiche ancora, eccetera. C'è in atto probabilmente un meccanismo per mettere in minoranza o mettere in crisi Putin, perché sta prendendo probabilmente troppo potere, e anche a livello europeo si stanno muovendo molti movimenti, la Le Pen in Francia, eccetera, per cercare di fare accordi diversi. Ecco, è un quadro. La decisione americana accelera questo, sia l'uscita di Assad, che è un bastione per dire, adesso però l'allargarsi di Putin e dei suoi alleati ha bisogno di un antemurale. Queste sono questioni geopolitiche molto importanti, però Mario, il fatto ora attribuito a chi non abbiamo la certezza c'è stato, cioè l'utilizzo delle morti, le morti di bambini, e quindi ci si chiede a livello internazionale se al di là dello scacchiere geopolitico si debba o no fare qualcosa. Trump, e questa è forse anche la vera novità, perché si diceva ma Trump, vedete che poi verrà smussato una volta al potere, non può dire e fare quello che ha detto. È bello energico. E invece ha fatto quello. Oltretutto, che questo è il quadro in cui in questi giorni il generale McMaster, che è il consigliere della sicurezza, che ha sostituito il consigliere della sicurezza iniziale, che è decaduto per così dire di fronte ai suoi problemi, sta portando a, come si vede in pochissimi giorni, essendo lui il responsabile per esempio dell'uscita dal consiglio di sicurezza di Steve Bannon, è stato generale McMaster, e il generale McMaster è il primo ispiratore insieme ad altro 4 generali a 3 o 4 stelle della decisione di stanotte presidenziale. Il peso di militari molto energici che erano molto critici verso gli errori di Obama in tutta la politica internazionale di sicurezza è diventato molto maggiore di quanto non si immaginasse anche dopo che aveva appena vinto le elezioni, e questo è un altro fattore che sicuramente pesa in questa scelta. Allora, prima di andare in pausa a questo punto, perché come detto andiamo avanti fino alle 9:30, vogliamo salutare, e starà con noi gli ultimi 5 minuti di questa prima parte, il generale Carlo Cabiciosu, che è stato responsabile del comando operativo Interforze, cioè le nostre missioni all'estero, tra i tanti incarichi che ha avuto. Generale, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, ovviamente ci si interroga se sia stata proporzionata, non proporzionata la risposta americana, risposta perché la teoria è Assad ha usato le armi chimiche. Qui con Oscar Giannino ci stavamo domandando che in realtà non c'è una versione certa sulla quale accertata dal punto di vista destacabile, perché appunto almeno ha detto il BND pensa, avanza addirittura un'ipotesi della cancelleria tedesca che possano essere pezzi della catena di comando siriano, che visto che con Trump e lo stesso Putin non difendono più Assad, tanto vale creare un tragico incidente per accelerarne la dipartita. Ma questa come altra ipotesi è generale, lei che pensa? Ma io penso che per il momento si possa considerare soprattutto un atto dimostrativo di quella che è la nuova filosofia verso il mondo esterno di Trump, per cui è ancora prematuro pensare che questo sia il prologo a un intervento diretto. I famosi boots on the ground rimangono sempre una ipotesi piuttosto difficile da attuare, molto impegnativa. Cioè anche i militari sul campo, no? Gli stivali proprio certo. Sul terreno. Poi credo che questo possa essere la premessa invece all'apertura di un colloquio collaborativo in qualche modo con Putin, perché ormai Putin si è insediato in Siria, sta combattendo la sua battaglia, ma certamente non si può pensare che ci sia un confronto diretto fra Stati Uniti e Russia per una questione che tutto sommato non è di vitale interesse né per l'uno né per l'altro. Certo, generale, Putin... a giudicare dalle reazioni prime del Cremlino, si parla di livello di rapporti deplorevole ormai dopo quest'azione. Ma lo sa, le parole è la diplomazia. Infatti, poi sono un'altra, perché si è visto benissimo che preso per il suo verso, Putin è un personaggio col quale si può trattare, l'ha dimostrato ampiamente quando c'è stato da risolvere il problema del nucleare iraniano. Quindi di tavoli aperti che ci possono essere fra la Russia e il resto del mondo ce ne sono un'infinità, in cui la Russia può avere i suoi interessi a cercare di avere qualche vantaggio su quei tavoli e cedere qualche cosa per quello che riguarda invece la sopravvivenza del regime di Assad. Interessante però, generale, lei ci sta dando una chiave di lettura più americana, cioè guardate che leggetelo dal punto di vista di Trump, che ha voluto, come dire, cambiare le carte in tavola, una nuova filosofia, o meglio, che prima era parole, che ora viene messa in pratica. Io credo che sia anche l'Europa che deve incominciare a pensare ad avere un rapporto diverso con Putin. Si possono trovare dei compromessi sia sulla questione dell'Ucraina, sull'ingresso del Montenegro nella NATO, sulla permanenza di basi russe nel Mediterraneo. E parliamoci chiaro, oggi da un punto di vista militare non sono più quella minaccia così immanente che poteva rappresentare ai tempi del muro di Berlino. Per cui io credo che ci sia prima di tutto da avviare un colloquio con Putin, pronti a fare delle concessioni e pronti anche però a giocare le carte del deterrenza che un paese come gli Stati Uniti può esercitare in qualunque momento. L'unica cosa che spero è che l'Europa non resti indietro di chilometri in tutto questo. Qui su questo auspicio più condivisibile, qui proprio perché auspicio un conto, poi il realismo nel vedere questa teoria tradursi in qualcosa di concreto, sappiamo che però giusto vero l'auspicio. Certo, sì, certo. Una notizia della CNN: russi, la CNN lo dice, erano presenti nella base colpita dal raid missilistico americano. Non è al momento conosciuto quale fosse il ruolo di questi russi. È molto probabile, perché ovviamente le basi aeree in Siria non è che siano così tante, per cui visto che i russi combattono anche una guerra aerea, hanno bisogno di appoggiarsi a tutti gli aeroporti che ci sono sul territorio. Per cui è probabile che ci fossero dei russi. Allora, noi generale la ringraziamo, Carlo Cabigiosu, grazie per essere stato con noi qua. Oscar, ovviamente molti dicono, vi ricordate Colin Powell, le armi chimiche, l'Iraq? Certo che vedi, poi la storia ritorna, dice, la gente non si fida più della teoria. La differenza è che all'epoca poi non si vedevano, adesso l'abbiamo visto per i risultati, che ci siano degli agenti chimici che hanno prodotto quei morti è poco mai sicuro. Allora, come e perché ne sia stato fatto il rilascio e l'uso, ecco, questo è un mistero. Però noi non ci fermiamo qui, andiamo avanti fino alle 9.30, quindi diamo spazio al giornale radio e poi ritorniamo. A tra poco. Noi. Il 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Una volta tanto la sfida economica tra Italia e Francia è stata vinta dall'Italia. Abituati infatti agli acquisizioni da parte francese di gruppi italiani, qualcuno l'ha chiamata vere e proprie scorribande nel nostro paese, vale la pena segnalare come uno dei gioielli della cantieristica mondiale, l'italianissima Fincantieri, si è riuscita ieri a trovare un accordo per l'acquisizione degli importantissimi cantieri navali francesi STX France, che hanno sede a Saint-Nazaire. La quota di maggioranza dei cantieri francesi, messa in vendita dal Tribunale fallimentare di Seul perché apparteneva a un gruppo sudcoreano, era stata infatti assegnata proprio alla Fincantieri in una guerra dove c'erano altri tre candidati, il gruppo asiatico Genting, il gruppo olandese Damen e un fondo di investimento anglo-cinese. Siccome però Saint-Nazaire costruisce anche navi militari, la Francia voleva mantenere una presa parziale sul gruppo. L'accordo di ieri va in questa direzione: gli italiani avranno il 48,7%, lo Stato francese mantiene una minoranza di blocco al 33%, ma il controllo operativo del gruppo è garantito a Fincantieri anche dal fatto che vi sia un fondo italiano che ha un'altra quota del 10%. E quindi, senza voler essere troppo nazionalistici, una volta tanto Italia-Francia 1-0. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino. A Vinitaly, padiglione 3, trentodoc.com. Sono le 9-8 minuti ed entriamo in diretta. Sono Alessandro Milan, c'è Oscar Giannino, ovviamente, perché stiamo qui fino alle 9.30 in diretta, in questo speciale, possiamo dire. Eccoci qua. Dedicato. Per chi ci crede, oggi il santo da pregare è San Giovanni della Salle, perché San Giovanni Battista della Salle è un santo che nella seconda metà del 600 e fino al 1719 è protagonista in Francia di un grandissimo movimento a favore della scuola per chi non ha. E infatti è il protettore degli insegnanti, perché si dà da fare in tutta la sua vita, in tutta la Francia del nord, per così dire, proprio per moltiplicare i tipi di istituti per i giovani poveri, per i carcerati, per le ragazze, eccetera, eccetera. Tanto che incontrerà poi il sospetto e lo scontro diretto sia con le alte gerarchie cattoliche, che non capiscono tutto questo suo darsi da fare per portare istruzioni a chi poi in definitiva all'epoca veniva considerato che non dovesse ascendere attraverso la conoscenza nella scala sociale, sia dei giansenisti, che all'epoca erano fortissimi, c'era una grande controversia aperta a Parigi, al punto tale che si dovette ritirare in provincia. Però, sorpresa sorpresa, tutti credevano averlo emarginato. Quando morì nel 1719, 30.000 persone e 30.000 degli studenti, per così dire, che gli dovevano aver appreso il linguaggio per leggere un libro, si ritrovarono al suo funerale dando alla Francia intera la dimostrazione di che cosa aveva fatto questo. A me è sempre piaciuto, perché penso che la conoscenza sia davvero una delle cose fondamentali per chi ha meno. E il caso vuole che oggi che stiamo qui a parlare di guerra, di morte, di vittime e di politiche di potenza, il santo sia questo, uno che ha dato l'intera sua vita per portare libri e conoscenza a chi era povero. Comunque, di cosa parliamo? Ovviamente l'avete capito dalle 8, del fatto che gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco missilistico questa notte contro la base dalla quale, secondo loro, sono partiti gli attacchi chimici di Assad nei confronti delle popolazioni della provincia di Idlib. C'è Davide che ci chiama da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno Oscar, buongiorno Milan. Eccoci. Niente, io chiamato stamattina, io sono di origine siriana, mia mamma è nata a Damasco, ho parenti ancora là, sei molto lontani, quelli più vicini sono tutti gli Stati Uniti ed Atlanta. Niente, io chiamavo per questo, io conosco bene la situazione siriana. Anche l'ipotesi che paventavate della catena di potere di Damasco, che in qualche modo sta cercando di disalline, Esatto. La vedo un po' difficile. La famiglia Assad possiede e detiene il potere assoluto su tutte le frange, la sicurezza è gestita dal fratello, è di fatto una tribù quella che esatto. È la famiglia Assad, e lo vedo difficile che qualcuno all'interno di una catena del genere possa pensare di accelerare, perché ne verrebbe travolto anche lui stesso, non prende senso. Io quando succedono queste cose qua, purtroppo invidio chi ha la verità in tasca, perché più sereno. Io mi faccio sempre una domanda: ma chi è che ne trae vantaggio da una cosa del genere? E secondo me in questo momento Putin no, Assad no, l'Iran neanche. Chi ne trae vantaggio è chi in qualche modo sta guardando, fa guardare il mondo da un'altra parte, fa concentrare su altre questioni e soprattutto accelera su una situazione che stava evolvendo a vantaggio del chiamiamolo avversario. Certo. Secondo me, guardi, le dico, mia mamma è scappata da Assad padre, perché la vita era... si viveva bene, ma la libertà non... Ah, non quindi è scappata ai tempi di Hafez Assad ancora, cioè del grande, insomma, esatto, di colui che ha messo in piedi questo sistema e per decenni ne ha controllato ogni aspetto. Esatto, il papà dell'attuale Bashar. Per cui non posso parlare bene del governo siriano, del metodo di governare della Siria, però d'altra parte non voglio neanche bere tutto quello che avviene, perché purtroppo abbiamo già visto che con un sacchettino di polvere bianca si è fatto un genocidio in Iraq. Quella la questione che molti citavano, cioè il fatto che non ci si fida più degli americani perché Colin Powell, no, la famosa questione delle armi chimiche e, o meglio nucleari anche in Iraq. Il rapporto Blair che spinsero il Regno Unito. Però qui un attacco c'è stato. Quindi li abbiamo visti, il problema è chi, come e perché ha deciso di usare, come esatto, si vede avviando una catena di azioni e interazioni che cambiano sostanzialmente le forze in campo, gli equilibri, i rapporti tra Stati Uniti, Russia, Israele, Turchia. Non dimentichiamo che la Turchia, fin dal primo momento di quelle immagini, ha dato il segnale. La Turchia che si era riavvicinata a Putin, ricordiamolo, sì, dopo l'abbattimento di un jet russo. Fin dal primo momento, invece, Erdogan ha dichiarato Assad la pagherà. E infatti, aprendo, guarda, un grande corridoio di riflessione negli Stati Uniti, dicendo: ah, interessante. Infatti, la Turchia, quindi... la Turchia, vedi, Oscar, poco fa dice: ritiene positivo l'attacco americano. Il primo ministro Kurtulmus ha detto: è indispensabile che Assad sia punito dalla comunità internazionale, perché la Turchia vede in questo sviluppo, e fin dal primo momento ha giocato in questa chiave le immagini delle tragiche, no, delle vittime dei bambini, per dire: America, riequilibriamo rispetto a Putin e alla sua scelta troppo filo sciita, filo iraniano, fino a Hezbollah. È chiaro che la Turchia ricava un proprio spazio a vantaggio dell'ipotesi invece nazionalista sunnita, per rivendicare quindi più voce rispetto a quella che era diventata preminente dell'asse sciita coperto dalla Russia. Mi rendo conto, per chi ascolta, a volte è un po' complicato seguirci, però oimè è complicata quella partita, non è colpa tutto nostra. Con noi c'è Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa.it. Gianandrea, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Ci stiamo interrogando su che tipo di lettura dare a tutto quello. C'è chi dice, come Jean-Pierre Darnis ha detto, beh, la lettura è semplice: Assad è un criminale, è lui che ha usato i gas ed è stato punito. Cabigioso ci ha detto: leggetelo più in chiave americana. Trump ha fatto vedere che non è solo chiacchiere distintivo, si userebbe, ma è anche uno che ha voluto dare una svolta. La anche perché aveva detto fin dall'inizio: colpa di Obama, e io esatto, questa volta faccio quello che lui ha detto, ma non ha fatto. Tu che dici, John? Sì, lui dopo tre mesi assomiglia già ad Obama, che ha lanciato missili un po' qua e là, anche nello Yemen, poco prima di andarsene senza risolvere. Ha lanciato missili contro l'ISIS senza combatterlo veramente. Insomma, a me questo Trump, che dopo tre mesi assomiglia già a Obama, mi induce a fare riflessioni diverse. Intanto perché mi viene da dire quello strano attacco chimico in cui i soccorritori, in presenza di sarin, li vediamo in fotografie di diffuse dal centro mediatico dei qaedisti di Al-Nusra, perché questo è l'Idlib Media Center, come lo era l'Aleppo Media Center. Vediamo questi ragazzi in maniche di camicia con la mascherina che usiamo noi quando andiamo in bicicletta nelle città piene di smog, a dirci che quello è sarin. Col gas nervino, se noi guardiamo le immagini dei nostri militari della NATO che si addestravano a combattere in ambiente inquinato da gas nervini durante la guerra fredda avevano una completa copertura del corpo perché attraverso la pelle viene intossicato lo stesso. Quindi strano, cioè quindi guarda un po', che lettura dai a quell'attacco? Ma guarda un po', perché? Un'azione del genere e dopo poche ore tutto il mondo si riunisce all'ONU, Bashar Assad cattivo, e certo non è un santo, ma se vuole ammazzare 80 persone gli bastano 3 bombe convenzionali. Se fai un attacco chimico lo fai per usare un'arma di distruzione di massa, come fece Saddam Hussein ad Al-Abja nell'88 contro i curdi, ne ammazzò 5.000 con un bombardamento aereo chimico. Allora la mia lettura è questa, che questo incidente col gas è stato fatto apposta per giustificare un rovesciamento completo della posizione della politica estera americana di Trump, che era partita dicendo in Siria, 4 giorni fa l'amministrazione americana ha detto per noi la caduta di Assad non è una priorità. Esatto. Accordi con Russia e Siria, esatto, per combattere i jihadisti. Ma fatto oggi da chi? Cioè, festeggiano l'incursione americana. Certo, ma fatta apposta da chi? Perché, cioè, Guarda, io sono convinto che l'ipotesi russa del bombardamento convenzionale, che nella sacca di Idlib gli siriani non hanno nessun bisogno di usare i gas perché i ribelli sono circondati, e gli russi dicono che bombardando in maniera convenzionale hanno colpito un deposito, sì, di gas dei ribelli, può darsi, ma può anche darsi che invece dopo il bombardamento convenzionale i ribelli abbiano avuto la disponibilità hanno del gas nervino non così sofisticato, non così come quello militare, diciamo, e hanno liberato un po' di gas, hanno ucciso 90 civili e hanno potuto addossare la colpa al regime siriano. La cosa è plausibile, perché se no non mi spiego perché tutta la comunità internazionale, persino l'Italia e l'Occidente, senza una sola fonte neutrale è andata sul posto a fare delle, esatto, analisi chimiche che dimostrano. Se lo ricordiamo che il gas nervino di Bashar Assad lo abbiamo smaltito passando dal porto di Gioia Tauro 3 anni fa su una nave americana. Questo era esattamente ciò che appunto è stato questo uno dei motivi, anzi la Russia era garante, sì, di questa, come no, esattamente. Allora, quello noi dici. Abbiamo la composizione chimica esatta del gas nervino degli arsenali siriani, confrontarlo con quello utilizzato nella sacca di Idlib con la fonte neutrale capire, che lo fa, cioè, ma non abbiamo aspettato neanche 48 ore già per lanciare gli missili. Allora la mia lettura è questa, che che un Trump che rischia l'impeachment dai democratici che lo accusano proprio dei suoi rapporti con Putin ed è pressato dai falchi repubblicani come John McCain, che rimproveravano anche Obama di non aver fatto saltare per aria Bashar Assad così come fecero saltare per aria Gheddafi, tanto poi i problemi sono tutti nostri. Si copre dietro un usbergo invece di grande ultore, sì, della politica internazionale, adesso, e anzi dei diritti civili, dei bambini e così via. Sì, ma i bambini li hanno uccisi di più gli americani una settimana fa a Mosul, forse per errore, ma li hanno uccisi di più con i bombardamenti convenzionali che hanno fatto nella parte vecchia di Mosul Ovest di bambini. Poi quando io sento parlare di bambini mi chiedo sempre perché un bambino ucciso dal gas ha una vita, la vita di un bambino ucciso dal gas è vale di più dei tanti bambini uccisi in Siria dalle schegge di granate convenzionali. No, hai ragione. Però per capirci raccontiamo ascoltatori, cioè significa, sì, che questa è un'ipotesi, però l'ipotesi che pezzi di caedismo, che sono poi pezzi fondamentali di quello che partì dipinto dall'America e dall'Occidente come l'opposizione laica e democratica a Bashar al-Assad, che orchestrano un'operazione che viene immediatamente traguardata in questa reazione americana. Pezzi di caedismo, perché bisogna raccontarla anche per quello che è. Ma diciamo però anche dietro questi pezzi di caedismo c'è una Turchia che ha aiutato chiunque, esatto, combattesse Assad, esatto, incluso l'ISIS, i miliziani dell'ISIS feriti nella battaglia di Kobane finivano negli ospedali turchi, esattamente. No, però allora, interessante è perché Gaiani prima Darnisa appunto ci ha dato la versione diametralmente opposta e alla domanda ma che utilità avrebbe avuto Assad ad attirare su di sé l'attenzione del mondo, ha risposto dicendo ma guardate che non è che sono tutti Machiavelli, mettete in conto anche la stupidità umana delle persone, no, è uno stupido allora, e ha fatto io questo. Io credo, vedi, questo problema ce l'abbiamo su tutto ormai, c'è una visione da tifo calcistico, l'abbiamo vista durante la campagna elettorale americana. Io credo che di Assad possiamo dire le peggiori cose, ma era un dittatore anche nel 2010, quando il nostro presidente Napolitano andò là 4 giorni e lo decorò come eroe della pace in Medio Oriente con la più alta decorazione della Repubblica. Non è che allora era un sincero democratico, però oggi il problema è che possiamo accusarlo di qualunque cosa, ma non di stupidità. Lo dimostra il fatto che la guerra sul campo, a parte fino all'altro giorno, l'aveva vinta grazie all'appoggio dei russi. Il problema è un altro: noi dobbiamo avere la tranquilla certezza che far cadere Assad non vuol dire portare una democrazia federale svizzera in Siria, vuol dire far cadere la Siria in mano ad Al-Qaeda. Il problema è che chi lo fa cadere crede di avere più voce in capitolo nella spartizione e nel lungo conflitto che ne deriverà, perché questo, l'esperienza fino a questo momento è questa, e infatti fai bene a ricordarcelo. No, ma noi infatti ringraziamo Gianandrea Gaiani, direttore analisi difesa.it. c'è anche un altro ospite che ci ha raggiunto, caro Oscar, che è Lorenzo Vidino, direttore del programma sull'estremismo presso la George Washington University. Vidino, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Perché qui l'aspetto americano, cioè, qui si vede, stiamo offrendo ai nostri ascoltatori una ampia gamma di interpretazioni. No, ma fai bene a dirlo, perché subito sono partiti quando c'è Darnisi. Non c'è contraddittorio, non va bene. Il contraddittorio si crea. Abbiamo sentito un'analisi che dice diverse. Trump cambia l'impostazione nei confronti di Putin, eccetera, eccetera, crea un antemurale e approfitta di questo di fronte alla responsabilità di Assad sull'intervento, utilizzo di armi chimiche contro i bambini. Siamo passati a leggere l'interpretazione. Attenzione, la Turchia aveva segnalato fin dall'inizio, essendo sempre stata ostile a Assad perché vuole espandere il suo ruolo di influenza, aveva detto: chiunque lo bastona, sia l'ISIS, io sono dalla sua parte, e apre la strada a questo intervento dell'americano. Abbiamo letto l'interpretazione interna di un Trump in difficoltà. Solo ieri si era dimesso Nunes, il repubblicano alla testa delle commissioni di indagine sulle implicazioni filorusse dell'amministrazione. Era nei guai da questo punto di vista, sempre più seri il presidente, che diventa oggi invece il campione dell'interventismo delle libertà e naturalmente dei diritti dei bambini. E abbiamo visto anche con Gaiani l'ipotesi che siano invece i qaedisti anti Saddam che magari creino un incidente e aprono questo. Quindi, come si vede, Vidino, sentiamo onestamente di registrare tutto. Vidino, che Vidino ci dice? Che ci dice? Complicato, non è facile capire esattamente cosa sia successo. È chiaro che prima di tutto Trump ha reagito molto emotivamente, come tutta la comunità internazionale, a quello che è successo, l'attacco con le armi chimiche, senza poi che però, almeno pubblicamente, abbia dimostrato il coinvolgimento di Assad, perché comunque la prima domanda rimane nel discorso molto breve che fa Trump, dà per come assunto il fatto che sia stato Assad. Anzi, individua la responsabilità russa nel non averlo fermato Assad, però cioè dà per scontato, sono stati loro, A, B, i russi, garanti del fatto che non avevano più, sono responsabili come loro. Sì, però chiaramente direi che quando uno inizia un'operazione del genere dovrebbe portare delle prove chiare. Adesso chiaramente alcune sono nel mondo dell'intelligence, non si può sempre rendere pubblica l'intelligence, però è chiaro che un'operazione di questa portata, in cui si va a bombardare uno Stato sovrano in un momento così delicato con la Russia coinvolta, è chiaro che bisognerebbe forse dire un qualcosina di più e dimostrare, lo sappiamo perché A, B, C, D, e portare delle prove. La cosa non viene fatta. Il perché Trump cambi quella che è il suo atteggiamento iniziale, poi ripeto, noi dobbiamo interpretare l'amministrazione Trump dalle pochissime informazioni che abbiamo su di essa, perché in realtà è basarsi sui tweet del presidente e poco più. Cioè, ricordiamoci che il Dipartimento di Stato ha fatto una conferenza stampa da quando Trump si è insediato, normalmente sotto Obama erano 2 alla settimana. C'è una difficoltà enorme dal punto di vista del pubblico, dei media, a capire cosa passi per la testa del presidente e dell'amministrazione. E lo stesso segretario di Stato, Rex Tillerson, fino a questo momento, al di là degli incontri ufficiali con i leader, quando gira, passa, è più famoso per i suoi silenzi sui temi che per le risposte che dà. Perché Tillerson non ha ancora uno staff. Questa è un'altra cosa incredibile di questa transizione. Ci sono dei problemi congeniti in qualsiasi transizione da un presidente all'altro, ma sono particolarmente acuti in questa amministrazione. Cioè, al Dipartimento di Stato c'è Tillerson, ma mancano tutti i quadri dirigenziali. Cioè, nel sistema spoil system americano è normale sostituire non tutti, ma molti di coloro che poi fanno in realtà la politica. Certo, c'è il segretario di Stato, ma poi ci sono tutti i sottosegretari e via dicendo. Nell'amministrazione Trump mancano Vedino, ha ragione o ha torto chi mi ha descritto questa situazione dei buchi nella transizione a livelli molto elevati negli staff di tutti i segretari, cioè del vertice, insomma, dell'esecutivo nominato da Trump? Però mi dicono, ecco, l'eccezione vera sono i militari, che si sono organizzati di fronte alle difficoltà della scelta del primo consiglio di sicurezza che aveva fatto il presidente Trump, si sono organizzati chiudendo in una leale ma seria morsa, per così dire, Trump, che è la parte, altro che le diverse anime del Partito Repubblicano, è la parte a cui ha dato più retta per tentare di dare solidità al suo staff, è vero? Assolutamente, i generali sono quelli che si sono organizzati meglio, non solo al Pentagono, ma se vediamo anche in altre posizioni strategiche dell'amministrazione, McMatheson, al National Security Council, che va a sostituire un altro poi generale che era Flynn. Insomma, le posizioni chiave di questa amministrazione sono in mano a dei militari. Il che non vuol dire, non voglio dare l'interpretazione, che questo intervento così un po' improvvisato sia per colpa dei generali. In realtà poi se c'è un'entità che tradizionalmente restia all'intervento così rapido è proprio quella, sono proprio i militari americani. Questa è una decisione politica al quale chiaramente poi il Pentagono obbedisce, però manca assolutamente quella che è un'analisi di politica estera, manca assolutamente, insomma, capiamoci, chi ha mandato adesso in Iraq come suo rappresentante Trump ha mandato sostanzialmente la famiglia, cioè lui ha nei meeting fondamentali di politica estera manda figli, cognati e via dicendo, persone che magari intelligentissime ma però, che hanno zero esperienza di politica estera. Allora, noi nel ringraziare Lorenzo Vidino, che è direttore del programma sull'estremismo, che avete capito è un po' critico in realtà, ecco, chiaro, anche lui come anche Gaiani, insomma, è, a cercare di ristabilire, abbiamo proposto varie versioni, esatto, in questo, cioè, non c'è lungo nessuna speciale verità in tasca, no, qua speciale che continua, tra l'altro vedo già pronta Anna Migliorati che condurrà dalle 9.30 fino alle 10.30. Vogliamo ringraziare oggi più che mai Lorenzo oggi Nespoli che sgambetta e salta e sì, corre. Sì, no, poi ciao Lorenzo. Vabbè. Che cosa Lorenzo? No, lui è felice, sgambetta anche per un'altra ragione. Siamo in fascia protetta, è meglio tenere i nostri ascoltatori, sappiate che c'è chi sgambetta anche a ore antelucane perché c'ha... Ah, perché... Perché? Non lo so, ha fatto degli incontri. Bravo, hai capito al volo. Cosa vabbè. Ringraziamo Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi in redazione, oggi Carmelo Lauricella in regia e continua lo speciale di Radio 24 su quello che è successo questa notte. State con noi ci troviamo tu oggi pomeriggio. San Giovanni Battista Salle, prega per noi, va? Vabbè, a lunedì.